lo so, anche boh, vedo che ci sono qualche produttore che invece non, almeno se non sbaglio, non hai nessuna di queste tre carte qua. Non so se se vi viene in mente qualcosa. Beh, c'è il Paolo, è vero, Paolo. Paolo, tu ci sei nella carta di... Non ci arriva, ti tocca venire fino a qua.